Siamo con Giacomo Sette, che è autore dello spettacolo Il Peccato, che andrà in scena. Pronto? Sì, che andrà in scena al Teatro Studio 1 a Roma dal 1 al 4 marzo. Allora, Giacomo, intanto benvenuto. Grazie, buonasera. Ci racconti in breve questa storia? Sì, allora, il peccato è in sostanza la predica di un pastore evangelico, donna, ed è ispirato ad un personaggio realmente esistente che si chiama Katie Fisher, che rappresenta, è una predicatrice degli evangelici americani, esperta in predica ai bambini. E noi abbiamo deciso, insomma, di immaginarla che portasse questa predica all'interno di un teatro, più che altro con l'intenzione di denunciare la violenza psicologica che questa setta mette in atto fin dalle prime età della vita, che è oltretutto una confessione molto importante in America, quella degli evangelici, che ha anche un peso politico non indifferente ed è stato uno dei cardini, in un certo senso, anche della campagna elettorale di Trump. All'interno proprio dell'ideologia di questa confessione religiosa ci sono moltissimi temi che ricorrono nell'ideologia ultraconservatrice americana, delle ali estreme dei Tea Party, eccetera, eccetera. Quindi ci interessava fare ricerca proprio su questa figura qui, portandola così com'è, in un certo senso. Quindi senza esprimere una, non so come dire, lo spettacolo non esprime direttamente una critica, non porta semplicemente quello che queste persone raccontano alle persone che vanno ad assistere alle loro prediche o alle loro, chiamiamole così, messe, perché basta ascoltare questo tipo di discorsi per rendersi conto che c'è qualcosa che non va proprio nella cultura che rappresentano e che è una grossa fetta della cultura americana, credo. Senti Giacomo, com'è nata l'idea di farne uno spettacolo? Allora, l'idea di farne uno spettacolo è nata appunto assistendo via YouTube, anche c'è un docufilm del 2008 molto interessante che si chiama Jesus Camp, che parla oltretutto proprio di questa predicatrice. È nata appunto vedendo estratti di queste messe, chiamiamole così, di queste prediche, e rendendomi conto che hanno un potere teatrale pazzesco, per cui sono degli affabulatori geniali e utilizzano moltissime tecniche tipiche del teatro per riuscire a convincere le persone, ma non tanto, non so come dire, non tanto razionalmente, ma proprio attraverso una vera e propria catarsi, che è l'elemento fondativo del teatro, in un certo senso come effetto da tirare fuori dal pubblico, e che loro sono bravissimi purtroppo a stimolare in chi li segue. Per cui, diciamo, la domanda da cui è nato proprio lo spettacolo è quanto teatro c'è in tutto questo e come lo posso effettivamente rappresentare all'interno di un meccanismo teatrale reale per mostrare in tutta la sua, diciamo, violenza quello che poi è il nocciolo di questo tipo di discorso e di ideologia. Quindi questa è l'idea che c'è alla base. Senti, in base anche a questa esperienza, ma poi vedendo anche chi ha un'arte oratoria efficace e l'influenza che hanno sul loro uditorio, l'elemento principale a ben vedere è l'ignoranza. Sì, assolutamente. Diciamo che queste sono figure che al contrario del loro auditorio si sono formate perfettamente e giocano proprio sulla consapevolezza che hanno davanti delle persone che non hanno conoscenza di base, non hanno proprio neanche gli strumenti per acquisirla, perché infatti spesso partono da partono proprio da, da realtà molto marginali, per riuscire a creare una base estremamente vasta e potente, e attraverso l'oratoria veicolano un messaggio poi trasversale, sì, per cui riescono a convincere sia il ricco che il poverissimo nello stesso identico modo, facendo leva proprio su una su un'ignoranza di base che viene in qualche modo infuocata, sì, da quella, sì, che può essere la bellezza formale di un discorso e l'uso estremamente consapevole di determinati strumenti che secondo me, per quanto mi riguarda, sono prettamente teatrali. Rispetto a questa storia vera che ha delle basi reali, volevo chiederti se hai nozione di quanto impatto abbia a livello numerico negli Stati Uniti, quante sono queste le persone che aderiscono a questa ala del cristianesimo, chiamiamola così, e che influenza hanno, che pericolo sono, rappresentano per la società? Allora, guarda, diciamo che il numero percentuale esatto non te lo so dire. Okay. La cosa che ti posso dire è che, per esempio, gli evangelici americani appartengono al movimento della cosiddetta teologia della prosperità, che sono questi neopentecostali che sono riusciti in qualche modo appunto ad estendere il messaggio cristiano-metodista, che è la confessione base degli Stati Uniti, in sostanza il loro protestantesimo è metodista, sono riusciti ad estenderlo fino alle classi sociali dei finanzieri, insomma le classi sociali più agiate, quelle che fanno girare il capitale. Quindi il discorso, la pericolosità di queste figure, poi ovviamente le confessioni tra loro sono molto diverse, dentro sicuramente c'è anche gente che ci crede e vabbè. Però il discorso base è che questi predicatori hanno una presa sugli uomini politici, sugli uomini dello spettacolo, molto, molto, molto forte. Mm-hmm. Cioè, loro sono proprio in grado anche di decidere determinate parti di un programma politico di qualcuno. Per esempio Trump li ha conquistati e poi ha realizzato questa cosa promettendogli un giudice antiabortista. Okay. Ed effettivamente, per riuscire a conquistare questa parte di voto che è molto forte, perché negli Stati Uniti sono tutti religiosi, bene o male, le confessioni sono tantissime, ci sono quelle tradizionali che conosciamo anche noi, che di solito, per esempio, i cattolici sono più vicini ai democratici, eccetera, o anche i musulmani. Invece questi appunto neopentecostali sono tradizionalmente repubblicani, in sostanza. E i singoli, come è successo anche per Trump, diciamo, i singoli candidati a rappresentare i repubblicani alla Casa Bianca, quando si deve decidere chi sarà il presidente, proprio si giocano moltissimi voti su chi conquista di più i neopentecostali. Okay. Quindi anche sul discorso delle armi, per esempio, loro sostengono molto le armi, la liberalizzazione delle armi, piuttosto che sostengono moltissimo l'interventismo americano a livello proprio militare nel mondo, hanno proprio cioè intere parti di quella che è la loro idea del mondo rientrano poi nelle agende dei repubblicani. Sì. In particolare Trump ha proprio assorbito, deve moltissimo agli evangelici, cioè il suo è un programma che è molto ispirato, e anche molto più che ispirato, dagli evangelici. Mm-hmm. Per cui e loro affondano moltissimo le radici anche proprio appunto nella finanza, e mano parecchi agenti, industriali, eccetera, eccetera. Comunque, appunto, c'è questo interessantissimo docufilm che si chiama Jesus Camp, che dicevo prima, sì, in cui tutto ciò in modo anche molto, non so come dire, molto agile, sì, viene raccontato ed è estremamente comprensibile. Mm-hmm. Quindi, però sono molto molto presenti, ripeto, non ti so dire, non ti so fare una stima precisa a livello numerico, però basti pensare che il discorso del creazionismo nelle scuole, sì, insegnare che l'essere umano è una creazione divina e che la Terra è al centro dell'universo è un problema in America. Cioè, in America veramente la scuola pubblica, cioè ci sono scuole in cui si insegna questo anche a livello pubblico, sì, che sì, è assurdo, sì, in un certo senso, sì, sì, sì, anzi più che in un certo senso, è assurdo, punto, però loro sono così potenti, sono così inseriti a livello politico, che nelle scuole americane spesso si insegna il creazionismo, o comunque magari non si insegna il creazionismo da solo, però insieme all'evoluzionismo si insegna anche il creazionismo per poter dare entrambi i punti di vista, sì, sì, che è pazzesca come cosa, sì, sì, per cui insomma sono abbastanza pericolosi, ecco, almeno questo è il mio punto di vista. Senti Giacomo, in chiusura, il riferimento reale è donna, e come mai hai scelto per la messa in scena due donne, due attrici, e poi volevo chiederti anche come hai pensato la messa in scena? Sì, certo, allora innanzitutto ho scelto due attrici perché perché in particolare la predicatrice a cui mi ispiro io si fa accompagnare da una ragazza che canta. Okay. All'interno dei suoi, per loro appunto l'effetto spettacolare è molto importante, quindi giocano tanto sulla musica, giocano tanto sull'atmosfera, e quindi semplicemente abbiamo la predicatrice e la sua accompagnatrice, che nel nostro caso però, che giochiamo un po' più in modo un po' più astratto e simbolico su certe cose, non usa soltanto il canto ma usa anche il corpo muovendosi, creando, sì, delle sorte di coreografie che sottolineano il discorso del predicatore in alcuni punti. Sì, e, sì. A livello proprio di spettacolo e di come è strutturato lo spettacolo, io ho voluto dividerlo in quattro fasi. È uno spettacolo diciamo breve, nel senso che dura 50 minuti, sì, però in questi 50 minuti sono divisi in quattro movimenti, in un certo senso, come se fosse una suite, che hanno quattro stili diversi e quattro impatti diversi, in base a quella che è la necessità del predicatore nei confronti del pubblico, cioè in base a quello che è l'obiettivo di chi predica per il pubblico. Okay. Ovvero che cosa devo ottenere in questo momento e quindi come faccio ad ottenerlo meglio. Quindi abbiamo una prima parte di una ventina di minuti in cui appunto si parla di, cioè in cui lei racconta come predica ai bambini, che è molto, è quasi una comedy, è quasi un comedy show, un one woman show in questo caso. Poi abbiamo una seconda parte dove c'è una, è tutta di immagini, cioè una parte esclusivamente fisica della sua aiutante, e c'è una terza parte in cui lei predica direttamente al pubblico, quindi cambia proprio vestito, cambia atteggiamento, cambia modo di parlare, di recitare, perché veicola un altro tipo di messaggio, e una quarta parte in cui lei in un certo senso parla della e alla divinità, e quindi cambia ulteriormente, cambia anche la forma musicale e niente, è gestito così, è gestito come come se dovessimo veramente convincere le persone in questo senso. Sì, sì, sì, sì. Allora, ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Il Peccato di Giacomo Sette dal 1 al 4 di marzo al Teatro Studio 1 a Roma. Giacomo, un saluto, un ringraziamento, grazie, ci si vede a teatro. Ah, bene, grazie, grazie. Ciao. Mille. Un saluto.